Il leone e il topo. Una volta, mentre un leone stava dormendo, un piccolo topo cominciò a correre su e giù su di lui. Ciò svegliò immediatamente il leone, che piazzò la sua grossa zampa sul topo e aprì le sue enormi fauci per mangiarselo. «Scusami, Orri!» gemeva il piccolo topo. «Perdonami questa volta e non lo dimenticherò mai! Chissà, potrei essere in grado di renderti il favore fra qualche tempo!» Il leone fu così divertito dall'idea di un topo in grado di aiutarlo che sollevò la sua zampa e lo lasciò andare. Qualche tempo dopo, il leone cadde in una trappola e i cacciatori che desideravano portarlo vivo dal re lo legarono a un albero, mentre essi andarono in cerca di un carro per trasportarlo. Proprio allora capitò che il piccolo topo passò di lì e, vedendo la sfortunata situazione in cui s'era cacciato il leone, gli si avvicinò e presto rosicchiò le corde che legavano il re degli animali. «Non avevo ragione», disse il piccolo topo. «I piccoli amici possono dimostrare di essere grandi amici!»